Vi avevo lasciato con Mindquake per la fine della prima parte e ci ritroviamo appunto con Mindquake per questa seconda parte, ovviamente in compagnia di Max Macchia. 451 frammenti siderali come lo spazio profondo o meno che andiamo appunto a esplorare per tanti aspetti, sia in termini musicali, ma perché no anche in termini immaginativi, quello che appunto è l'immagine che parte dal fusione radiofonica dai suoni e appunto diventa poi una sorta, anche se vogliamo, di divisione, magari solipsistica per qualcuno, chissà, magari anche con il tentativo di renderla collettiva, forse una grande fuga generalizzata con magari sottofondi alla Mindquake e spazi siderali appunto che si sviluppano all'interno appunto di queste visioni, poi magari per uscire e trovare ancora altri approdi o perché no anche derive. Beh, le derive sono poi quelle di Mindquake, quelle di Fall, la caduta dentro lo stato ipnagogico che soprattutto nel primissimo periodo, giovane formazione Mindquake, che comunque soprattutto in questo primo Fall danno proprio quell'idea che poi è molto degli anni 10, dei primi anni 10, questa idea ipnagogica, questa opalescenza e quindi questo perdersi tra sogno e realtà, questo stato di veglia o di dormiveglia appunto tra il passaggio e quindi anche tutto quello che si sviluppa in termini sia di suono che anche in termini di visione, anche di visibilità poi è relativa in quel momento, se pensiamo appunto allo stadio che abbiamo nel momento in cui appunto c'è il risveglio, e cosa sentiamo anche in quel momento, oppure il momento prima di addormentarsi, altro momento topico per quello che è uno dei fenomeni insomma più interessanti di questi ultimi anni, sicuramente insomma degli anni 10, questo sviluppo appunto delle musiche sotto stato ipnagogico, con anche tutto il riferimento poi alle memorie, ai fantasmi anche che si vengono a creare. Infatti, come dicevo alla fine della prima parte, Mindquake lavorano molto sull'immagine del fantasmatica, queste ectoplasmi quasi e prendono forma a livello sonoro e a volte si librano anche appunto in termini spaziali. D'altronde poi il siderale anche questo, il grande freddo degli spazi appunto cosmici, degli spazi limitati, seppur appunto riscaldandosi con queste musiche attraverso appunto un'idea di viaggio, di escapismo se vogliamo per tanti aspetti, o comunque di poi un affronto diciamo ed un'attitudine se vogliamo anche non debole, perché poi c'è ben poco di debole, ma sicuramente sfumata dentro appunto linee che si fanno volutamente, quindi anche decisamente così appunto astratte a volte, facendo perdere un punto di vista chiaro volutamente. Questo forse è il discorso che Mindquake, come ad esempio un altro che accelera di certo di più sullo spazio e soprattutto su quello che può essere la proiezione spaziale, quindi dall'immaginazione veramente cosmica terrestre a quello che è proprio il vero e proprio viaggio, anche con veramente momenti di grande assurdità con Sanaro e con questo personaggio che da anni da queste parti, tra l'altro, piuttosto amato, Cameron Stallones, lo dico proprio come scritto, cioè un gioco e anche al massacro. Diciamo che c'è anche molto space junk, cioè spazzatura anche spaziale dentro le musiche di Sanaro, come tanta altra spazzatura, che però in maniera, insomma, con un arto del riciclo, che non è per forza, insomma, digerito. A volte si ha veramente la sensazione quasi del non compiuto, dell'indigeribile, appunto, non possibile portare a termine. Musica aperta e dischi, appunto, che vivono di questa apertura, hanno forse questa grande capacità, non soltanto, appunto, perdersi dentro lo spazio, ma anche, appunto, di creare quella sorta di ghiaccio bollente, come dicevamo nella prima parte, cioè, ovvero quasi, appunto, lo spazio siderale tra freddo atmosferico, invece calore immaginativo, e quindi tutto quello che ne consegue anche in termini, insomma, di opposizione e di musiche, quindi, che hanno questo valore positivo, forse proprio per questo hanno anche questa grande capacità di essere comunicative in maniera altra, ecco, potremmo dire. Andiamo a prendere, appunto, Cameron Stallones, che non, insomma, mi ricordo più un attore di qualche film, insomma, di movie, magari legato, che ne so, all'immaginario horror erotico di Jess Franco, ma d'altronde, insomma, in periodi di Martucci Ennio imperanti, così saluto anche qualcuno che sta all'ascolto, come dire, Cameron Stallones ci sta anche, appunto, con questa sorta di così una spazzatura impossibile, ma proprio per quanto, appunto, impossibile, resa in termini musicali anche con un grande volo fantastico, se non anche extraterrestre per molti aspetti, appunto, di Sanarro. Ce l'andiamo, appunto, a ascoltare, tra l'altro, nel trio undicesimo, da Gazebo Effect, quindi anche nomi che si rincorrono dentro questo gioco, appunto, assai particolare del nostro, appunto, Cameron. Per Stallones va da sé, insomma, no? Ve l'ho già detto, d'altronde. Vi siete divertiti con Sanarra, o in questo caso Sanarra Trio undicesimo, quindi anche così col giochino appunto di parole, quasi a volere evocare insomma di combo, se non addirittura appunto dell'orchestra da camera, ma ovviamente siamo nell'impossibilità appunto di questo tipo insomma di approccio. È appunto un grande gioco quello di Sanarra, che però appunto si fa cosmico, si fa suono, diventa appunto di fatto anche per molti versi un approdo importante per le musiche appunto di questi ultimi anni, visto che insomma è già una decina d'anni che con suoni che rasentano a volte veramente è quasi il comico, e però rigirati appunto in una chiave quasi così fantascientifica, e poi con quel senso di sperimentazione comunque che c'è, seppur celato dentro appunto questi giochi, anche al massacro appunto, come un po' accennavo prima, quasi evocanti appunto altri momenti storici dove appunto magari molte cose non venivano fatte, come dire, venivano celate perlomeno, insomma, quindi tutta la fantascienza di B-movie, con addirittura poi diventata anche di culto proprio per il suo essere volutamente, anzi in un certo qual modo sì, volutamente altezzosa, quindi poi di fatto cadere nel ridicolo, oppure momenti di viaggi incredibili, assoluti, come quelli che sono partiti dal B-movie, dal cinema anche piuttosto così low budget, basico, come però con appunto una fantasia veramente deflagrante, come il primo Carpenter, forse Dark Star potrebbe essere insomma l'immaginario adatto ad ascoltare le musiche di Sanarra, oltre che tutto l'immaginario che ovviamente potete ritrovare appunto su internet digitando appunto sia Cameron Stallones che Sanarra e i vari progetti insomma che dove è coinvolto il nostro americano. E, americana è anche probabilmente una delle madrine, non tanto del junkies, della spazzatura, dei momenti insomma di spazio scoppiato, potremmo dire cosmo rotto forse, la Susan Chani, grande, veramente grande, e soprattutto dopo molti anni che sono lavori più importanti, più belli, quelli sperimentali, e anche il grande ritorno di fatto da 4-5 anni, stampa dischi nuovi di grandissima bellezza, e con anche artisti piuttosto giovani. Ricordiamo insomma, e tra l'altro tra poco ascolteremo anche uno di questi progetti con la Kathleen, veramente di disco pregevole, quello che lo vede con la giovanissima suonatrice, potremmo dire, se mi fate passare il termine, Kathleen Aurelia Smith, con Sanarra, suonatrice, ecco, di veramente quasi a ricordare più l'incantatrice, che attraverso le elettroniche diventa quasi il titolo, poi appunto non lo cito così a casaccio, Sun Energy, e quindi l'unione, no, dell'energia del sole, diventa quasi una sorta appunto di grande incanto, veramente il Carmen nel senso anche antico, se vogliamo, ma qua veramente antichità e futuro si mescolano e si mixano e diventano veramente una sorta appunto di anche qua viaggio siderale, quindi fuori da quelli che sono i tempi e anche gli spazi terrestri. D'altronde poi la Chani, nel corso degli anni delle prime sperimentazioni con grandissimi maestri, come Donald Buckla, che insomma abbiamo anche trattato qualche 451 fa, ma anche John Chowning, quindi la prima computer music, Max Matthews, insomma, americani che hanno fatto dell'implementazione elettronica un viaggio non soltanto appunto terrestre, ma immaginando veramente altri mondi, se non che potremmo anche dire non soltanto appunto musicali, ma anche appunto fantastici in termini poi di quello che c'è di immaginifico creato nelle musiche. La Chani poi negli anni Ottanta si darà una sorta di new age piuttosto anche personale, forse così fuori o dentro forse in certi tempi degli anni Ottanta, dove la new age stava diventando musica edulcorata, fondamentalmente legata alla Yakuza, che era una vasca da bagno che andava molto all'epoca. E per ritornare appunto negli anni 10 veramente con ristampe dei vecchi lavori o addirittura stampe, quindi ripescaggi dei vecchi lavori sinto ai primi computer, lavori di importanza storica eccezionale, anche appunto retroattivamente, e questa retroazione ci porta appunto ai nostri giorni, perché con Neotantric, quindi progetto che vede la Chani insieme a Andy Vogtel, a Jane Weaver, a Ann Raker e Sean Kenty, quindi tutti piuttosto freschi in termini appunto di utilizzo di synth, di utilizzo anche di un'idea appunto spaziale che la Chani invece conosce bene e riesce anche a maneggiare, forse proprio adesso che insomma in età matura sembra quasi che ci sia una sorta di sì, quasi di ringiovanimento rispetto all'utilizzo appunto come era nel primo periodo minimale delle strumentazioni synth e basta, non quindi anche la fusione che fece appunto con orchestrazioni sia pur da camera sia pur in maniera sempre piuttosto raffinata, ma perdendo insomma quel valore della grande esplorazione appunto che questa sera consideriamo appunto siderale qua da queste parti di 451 frammenti sonori. L'andiamo appunto a sentire insieme agli altri, ricordo ancora Andy Vogtel, Jane Weaver, Ann Raker e Sean Kenty, appunto per questo progetto che esiste già dal 2013. Andiamo a prendere il loro viaggio appunto in Blue Amiga, e quindi anche con tutto quell'immaginario che adesso insomma da qualche anno viene considerato vintage, ma qua è veramente prendere i razzi, anche quelli di qualche anno fa, per veramente andare a esplorare nuovi suoni, avendo a mente appunto quello che è successo appunto nel corso degli anni, e fatto anche appunto dalla Chani, e ripreso e poi suonato appunto dai giovanotti che stanno dentro Neotantric. Viaggio anche, perché no, di dentro, non territori poi così, insomma, sereni, ma anche con momenti, appunto, anche se vogliamo inquieti rispetto, appunto, a una ricerca. Forse questo è il grande anche recupero, probabilmente anche grazie a questi giovanotti, e come dicevo prima, in particolar modo Andy Vogtel, che da queste parti passa, tra l'altro è dentro anche la prima parte di 451 siderali frammenti, o frammenti siderali 451, un po' componetelo un po' come vi pare. D'altronde si tratta di spazi, appunto, siderali, quindi spazi, insomma, extraterrestri, spazi che ovviamente, insomma, partono da qua, o forse per alcuni versi partono anche da fuori, perché no, come messaggi, insomma, extraterrestri captati e poi, appunto, codificati, decodificati, anzi, da questi musicisti. Per alcuni versi potrebbe essere proprio questa una lettura che potremmo dare, ovviamente tutto, come dire, condito da quella grande ricerca, quindi anche l'esplorazione, appunto, fantastica, ecco, in questo caso di suoni, ma anche e forse anche soprattutto di immaginari. Beh, vi lascio con un altro punto di riferimento, che per certi cosmi, soprattutto certi viaggi e cosmici infrastellari, anche se volete, e psiche, ovvero primissimi lavori di Craig, quando era sotto l'egida di Derek May, altro grande viaggiatore, forse della techno di Detroit, l'uomo con più spazio nella testa, in termini anche, se volete, di non tanto d'altitudine. Forse Joan Atkins, altro grande maestro della techno di Detroit, ce ne aveva di più di spazio, però uno spazio che sicuramente ci può dare quell'effetto siderale, appunto, tra caldo e freddo, che il caldo del viaggio immaginifico e il freddo, appunto, dello spazio, e anche dell'inquietudine, dell'ignoto, no, come dire, e che abbiamo trovato in No Tantra, e che troviamo, appunto, anche nella prima produzione di Carl Craig, appunto, come Psiche. E andiamo a trovare uno dei pezzi, tra l'altro, veramente miracolosi in termini di viaggio e di possibilità date, appunto, a questo. E vi rimando a mercoledì prossimo per un altro 451 frammenti sonori. Vi saluto, fate i bravi, mi raccomando, insomma, non mi fate preoccupare. E Max Macchia vi rimanda per l'ennesima volta, appunto, a un altro 451 frammenti sonori, e vi ridico, perché no, tanto non c'è nulla di male, anzi, è sempre un augurio, fate e continuate a fare i bravi.